terminato il circuitino 42, infatti stanno ancora lì con la ECC82, stanno ancora lì, sto lavorando. Ho fatto la scatolina, fatta bene, come si conviene, io ho messo lo strumentino V-meter, che ho fatto anche il circuito V-meter. Quando parlo praticamente si muove, mi fa da modulometro, così si capisce lì. Poi tensiometro di guadagno, pulsantino del PTT, perché può capitare che l'attacchi la radio, e c'è anche il pulsantino PTT, la scatoletta, l'interruttorino, e niente, sto andando con come stiamo andando la volta scorsa, capsula dell'MC60, questo amplificatorino audio per me è operato. Poi se tu ti stai aumentando vuol dire che mi stai sentendo bene, a te Claudia. Alla grande ti sto sentendo, no, non bene, alla grande. Tieni conto, sto ricevendo col presidente, quindi. Però la modulazione è bella, bella chiara, bella, bella senza nessun problema, Massimilia. Tutto cappa. Va bene, io invece sono rientrato qui alle 2:15 al lavoro, per andare adesso mi sto fumando una sigaretta e poi mi faccio una bella, come si dice, una bella pennichella. E poi stasera vediamo se vado a qualche parte o me ne sto a casa. Tanto la mattina dovevo lavorare, quindi purtroppo è così. Va bene, dai, un abbraccio grande, ti saluto, grazie dei controlli, comunque lascia tutto così, perché è perfetto, puoi chiudere tutto. E se coincide ci sentiamo nel pomeriggio, dai. Vado un po' a riposarmi perché sono a pizzi. Sono entrato stamattina alle 6, sono uscito alle 2:15. Tra viaggio e tutto. Ok Massimiliano, dai, ci sentiamo stasera o nel pomeriggio se coincide, ok? Ciao, grazie dei controlli, saluti a casa. Poi se senti qualche uno che è interessato, un accordatore fa da tutta la banda, compresa anche la 27, attacchi di antenna più una finale, praticamente sono 4, e strumentino schemi crociati, tipo l'MFG, il pezzo è completamente nuovo, c'è la scatola senza graffi, perfetta, tipo il presidente che non c'ha niente, il frontalino bello pulito, monopoloni, un polestar, funziona veramente bene. Lo dico perché non me ne faccio niente, io ce l'ho già gli accordatori, non ne posso nulla. Un video non faccio a cambio con qualche cosa che mi possa interessare, se ti qualche duro fammi sapere. Cappa Massimiliano, sarà fatto, e anch'io volevo far cambio con quell'MFG perché l'ho usato due volte quando ero via Pascolo e poi non l'ho più usato, e qua la stazione non lo uso, c'ho anche l'MN2000, c'ho l'altro, no. Va bene, se sento qualcosa ti faccio sapere, dai. Ieri abbiamo fatto le prove con Sandro, allucinante veramente, c'è l'antenna in corto, ecco perché aveva un sacco di problemi, a 5 di stazionarie. Tu immaginate che l'accordatore automatico del K non va neanche in funzione, qua era una scheggia. Infatti mi ha portato la radio per provare, ma non è un problema della radio, è un problema della sua antenna. 5 di stazionarie, non fa V e si ferma a 5, qua invece è V a 0. Allucinante. Adesso speriamo che abbia un po' di tempo per mettere a posto questa station anche lui, perché insomma altrimenti non può manco usare la radio per i 10 metri. Va bene, se sento qualcosa ti avviso, dai, cordialità, saluti, baci, abbracci e ci sentiamo nel pomeriggio. Ciao a tutti anche quelli che stanno ascoltando, bye. Intanto io sto aspettando che si svegli occhio di triglia. Buon riposo, allora sono qua in ascolto. Ciao, d'accordo, ciao.